24, i gialli della storia. Berlino, 20 aprile 1938, una ricorrenza importante. Il costruttore Ferdinand Porsche offre al festeggiato un singolare regalo di compleanno, il modello di una Volkswagen. Un omaggio personale per l'uomo che gli ha permesso di realizzare la macchina del popolo tedesco. Adolf Hitler. Quando io penso a Ferdinand Porsche, non posso fare a meno di pensare al costruttore d'auto più importante del XX secolo. Il sogno della Volkswagen, la macchina del popolo, lo ebbe fin dall'inizio e l'ha potuto realizzare solo diventando il costruttore del diavolo. Il costruttore del diavolo, il diavolo è Adolf Hitler. Per la realizzazione del suo sogno, un'automobile per tutti i tedeschi, Ferdinand Porsche dovrà collaborare con il nazismo e avere la complicità del Führer stesso. Oggi a Mix24 la storia di un'automobile unica al mondo è il Maggiolino, la vettura del popolo costruita in 20 milioni di esemplari. Ma chi è Ferdinand Porsche e come comincia la sua avventura? Ferdinand Porsche nasce il 3 settembre del 1875 a Maffersdorf, un villaggio della Boemia. Dimostra la sua passione per la ricerca fin da giovane, quando decide di realizzare un impianto elettrico per la casa di famiglia. Thomas Alva Edison è il suo idolo. Nonostante il divieto del padre, uno stagnino dai modi severi, lavora senza sosta. E nel segreto della cantina otterrà la sua prima vittoria. Poi Alfred Porsche riesce ad andare a Vienna. La capitale austriaca è il posto ideale per chi vuole diventare qualcuno. È l'inizio del XX secolo, l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche. Per le strade circolano le prime automobili. L'officina Lohner è una fabbrica di carrozze con una lunga tradizione, ma Ludwig Lohner, titolare dell'azienda, comprende le potenzialità del nuovo mercato e assume un giovane ingegnere che progetta solo automobili. Il suo nome è Ferdinand Porsche e ciò che sa lo ha imparato da solo. Nessuno possedeva una creatività così originale. Era un ingegnere straordinario, un vero talento, non solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche per la singolarità e la straordinaria novità dei progetti e delle idee. La prima auto costruita da Ferdinand Porsche è il veicolo più innovativo dell'epoca. Si chiama Lohner Porsche. Costruì una automobile che funzionava perfettamente. Ovviamente questa nuova avventura, questo gioco per così dire, era molto costoso. Sembra che sia costata 1 milione di fiorini e non abbia prodotto alcun profitto. Vienna 1906. Ferdinand Porsche ha lasciato gli stabilimenti della Lohner, ora è direttore dell'Austro Daimler. È padre di 2 bambini, avuti dalla moglie Luise. Costruisce il motore dell'Ettrick Taube, il primo aereo austriaco. Per assistere al volo dimostrativo, una folla immensa si riversa a Wiener Neustadt, una cittadina a 40 km da Vienna. In seguito Hitler ha sempre sostenuto di aver assistito a quell'evento e penso che sia vero, visto che vi partecipò tutta Vienna. La Grande Guerra è finita. In Europa l'economia riprende a marciare. Ma all'inizio degli anni 20, quanti possono permettersi di acquistare un'auto? Porsche intuisce che i tempi stanno cambiando. La prima utilitaria, talmente semplice da essere alla portata di molti, si chiama Sascha Wagen. È il veicolo precursore della Volkswagen. Ma per l'Austro Daimler commercializzare questa vettura è un rischio troppo alto. Porsche viene licenziato. È un momento di pesante crisi economica, mentre negli Stati Uniti, infatti, l'automobile è già un fenomeno di massa, in Germania è ancora un bene per pochi eletti. Ma Ferdinand Porsche non demorde. Porsche è diventato direttore tecnico della Mercedes-Benz. Ora vive con la famiglia in una villa a Stoccarda. L'ingegnere coltiva sogni ambiziosi, privilegia la ricerca e la sperimentazione. I dirigenti della Mercedes, al contrario, hanno come unico obiettivo il mercato e le vendite. I conflitti si acuiscono, Porsche viene nuovamente licenziato. Ma non si dà per vinto e apre uno studio di progettazione a Stoccarda. La crisi economica mondiale travolge anche la Germania. Porsche stenta a trovare finanziamenti e commissioni. I suoi pochi collaboratori vengono pagati solamente con vitto e alloggio. Sono anni difficili. Anni scanditi dall'ascesa al potere di Hitler fino alla cancelleria del Reich. È il 30 gennaio 1933. Il Führer non ha una patente di guida, ma è un appassionato di motori. Da anni è favorevole alla motorizzazione di massa e ora ha il potere per realizzarla. Berlino, febbraio 1933, Salone Internazionale dell'Auto. Il discorso di Hitler per la cerimonia di inaugurazione viene trasmesso alla radio. Vorrei ringraziare i numerosi tecnici e costruttori tedeschi il cui genio produce capolavori della creatività umana. È triste che il nostro popolo non conosca quasi mai questi uomini senza nome che sono invece sicuramente degni di essere ricordati. Quello stesso giorno da Stoccarda, Porsche invia un telegramma di felicitazioni al cancelliere, ricordandogli le potenzialità delle auto da corsa da lui ideate. È con gioia che ravvisiamo nel suo discorso la stessa volontà che anima il nostro operato. Esprimiamo la speranza che il nostro lavoro riceva l'attenzione e il supporto di Sua Eccellenza. Marzo 1933. Hitler riceve il costruttore e gli promette tutto il sostegno necessario per la produzione delle sue auto da corsa. Nürburgring, 1934, Gran Premio di Germania. Sulla linea di partenza c'è Hans Stuck, star della Porsche. È un battesimo del fuoco, sia per il pilota che per la sua auto, una vettura dotata di grandi innovazioni. Alla Auto Union avevo avuto qualche perplessità su questa vettura col motore posteriore. Durante la gara a Nürburgring, dopo qualche giro andato molto bene, Porsche venne da me e mi disse: «Allora, qualcosa da ridire? Visto che si può correre anche con il motore posteriore di Porsche?» Hans Stuck ottiene la prima vittoria per la Auto Union. La Mercedes è battuta. Porsche ha dimostrato all'industria rivale di essere il più forte. Ma nella mente di Porsche c'è un altro sogno, la macchina per tutti. Decide allora di presentare il prototipo al Führer, che lo invita a portare a termine il progetto entro un anno. L'imprenditore deve superare molte difficoltà. I grandi costruttori tedeschi cercano di ostacolare il lavoro di Porsche con calunnie e falsi rapporti diffamatori. Ma l'auto per il popolo, la Volkswagen e la costruzione di una nuova rete autostradale sono progetti fortemente voluti dal regime e sostenuti da una diffusa propaganda. Nell'inverno del 35, anche se un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia ipotizzata, il maggiolino fa i suoi primi percorsi di prova. Intanto Ferdinand Porsche continua a far correre le sue macchine negli autodromi di tutto il mondo, ottenendo grandi successi. Su tutti gli autodromi del mondo i grandi piloti della Mercedes-Benz e della Auto Union occupano posizioni al vertice. Su 17 gare internazionali finora disputate, 15 primi posti e 15 secondi posti sono andati alla Germania, un risultato senza precedenti. Appena potevamo, correvamo al cinema per vedere quei servizi del cinegiornale. Guardavamo i filmati delle corse, i piloti, Bernd Rosemeyer, Eli Beinhorn con la moglie, giovane aviatrice ed esploratrice. Rosemeyer era davvero un personaggio incredibilmente simpatico e affascinante. I nomi di quei mitici piloti seducevano non solo i giovani, ma il pubblico di tutta Europa. E anche quello americano. Alla Vanderbilt Cup, il momento clou della stagione automobilistica degli Stati Uniti, sono state invitate per la prima volta le frecce d'argento di Porsche. E come sempre, Bernd Rosemeyer sbaraglia tutti i rivali. La propaganda tedesca sottolinea le immagini della bandiera con la svastica che sventola trionfante in terra americana. l'ambasciatore tedesco porge le sue congratulazioni a Ferdinand Porsche. Luglio 1936, il Maggiolino viene presentato al Führer, che ne è entusiasta. La vettura sarà prodotta in serie al costo di 990 marchi. Sarà l'auto per tutti i tedeschi, l'auto del popolo. Lungo il canale Reno-Elba, a Fallersleben, sorge il più grande stabilimento della Germania. Secondo i progettisti, questa zona è al sicuro dagli attacchi delle squadriglie di bombardieri nemici. È Porsche in persona ad ispezionare il cantiere appena avviato. Adesso il capo è lui. Lo stabilimento viene costruito dal fronte del lavoro tedesco, la manodopera forzata di Hitler. Il finanziamento, invece, proviene da denaro rubato. La fabbrica modello del Terzo Reich viene realizzata con i fondi sottratti alle casse per gli scioperi e ai proventi della vendita degli immobili dei sindacati. Ogni anno da questo stabilimento dovranno uscire 500.000 auto per il popolo tedesco. Nel suo diario Goebbels scrive: stiamo creando una grande cosa che farà felice il Führer. 26 maggio 1938. Hitler posa la prima pietra dello stabilimento di Fallersleben. Per la prima volta, 50.000 persone possono ammirare la Volkswagen. Con la posa della prima pietra, inauguro uno stabilimento che, sono convinto, diventerà un simbolo del grande popolo nazionalsocialista. Una campagna pubblicitaria senza precedenti fa della Volkswagen il sogno di tutti i tedeschi, al punto che viene istituito un libretto di risparmio dove, versando 5 marchi alla settimana, in 4 anni si potrà entrare in possesso della vettura. Le adesioni sono moltissime, ma la guerra di Hitler sta per scoppiare. 1 settembre 1939. La Germania aggredisce la Polonia. È la guerra. Sulle strade i carri armati nazisti prendono il posto delle macchine del popolo. Dallo stabilimento di Wolfsburg non è uscita ancora una sola auto KDF. Il gigantesco impianto di Porsche è un'opera incompiuta. Mancano macchinari, materie prime, lavoratori. I primi oggetti costruiti in quella fabbrica gigantesca erano destinati agli armamenti, casse di legno per i serbatoi ausiliari degli aerei, prodotti ridicoli che non avevano nulla a che fare con quell'impianto. A Wolfsburg montavamo stufe per il fronte orientale, nulla che potesse essere classificato come armamento. Il Kübelwagen, una vettura sperimentale. È la versione militare della Volkswagen, ideata da Porsche anni prima dello scoppio della guerra. Alle porte di Mosca i radiatori dei veicoli della Wehrmacht gelano. Solo allora i generali riconoscono i vantaggi del motore raffreddato ad aria. Nel terzo anno di guerra ha inizio la produzione di massa. Durante tutto il conflitto Porsche mantiene il monopolio della produzione di autovetture. Hitler è entusiasta anche di questo nuovo veicolo Volkswagen. Il Kübelwagen diventa un punto di forza delle truppe di Hitler. In 3 anni di guerra ne vengono costruiti 50.000 esemplari. Uno sforzo produttivo che verrà cancellato quando, nel dopoguerra, gli stabilimenti metteranno in pista autovetture a ritmi impensabili. Cancelleria del Reich. Hitler onora il suo manager degli armamenti. Vengono nominati pionieri del lavoro il professor Ernst Heinkel, ideatore dell'Heinkel, un velivolo che si è distinto in molte circostanze, e il professor Ferdinand Porsche, costruttore della Volkswagen, il veicolo che ha saputo resistere al gelo dell'Est come alla fornace africana. Nonostante le onorificenze e la stima che la Germania nazista gli manifesta, Porsche dichiara il suo disinteresse per la politica. Ma quando a causa della guerra le sue industrie hanno seri problemi per mancanza di operai, non esita a rivolgersi al Führer. I prigionieri dei campi di concentramento diventeranno lavoratori delle sue fabbriche, ma la loro vita sarà dura, durissima. Dopo il completamento di questi capannoni, i 3.000 lavoratori ebrei prelevati dai campi di concentramento vengono rimandati nei lager della morte. Ma ne arrivano altri. Questa volta dal fronte orientale, lavoratori forzati. Li chiamano forestieri e in breve tempo rappresenteranno i 2/3 del personale della Volkswagen. vittime della caccia all'uomo di Himmler, reclutati con violenza, alcuni prelevati direttamente sul posto di lavoro e rinchiusi in carri ferroviari. Li attendono giornate lavorative di 11 ore, percosse, maltrattamenti, punizioni arbitrarie. Posso dirle che ci davano anche dei soldi. In un mese di lavoro guadagnavo abbastanza da comprare un paio di chili di pane. Ci permettevano di portare il pane nel lager e io lo consumavo con molta parsimonia. Quello era il mio stipendio. 2 chili di pane per un mese di lavoro. Porsche protesta ufficialmente per quei trattamenti disumani, ma la sua voce sarà inascoltata. Intanto l'ingegnere sta pensando a un nuovo progetto, vuole costruire carri armati. Il Führer compie una visita speciale. Davanti a lui il professor Porsche, che ha realizzato un nuovo modello di carro armato. È così che il Führer vigila sullo sviluppo e la realizzazione di tutte le armi della Wehrmacht. C'è al contrario un gerarca nazista che non ha molta stima di Porsche. È Albert Speer, il ministro per gli armamenti di Hitler. I due non si sopportano e si contendono il favore del dittatore. Un'occasione particolarmente prestigiosa mette i due rivali l'uno di fronte all'altro. È la presentazione al Führer di 2 prototipi per il carro armato pesante Tiger. Il favorito di Speer è il modello della Henschel, una struttura solida, a trazione convenzionale. Speer lo prova di persona e manifesta la sua soddisfazione. Il progetto di Porsche, al contrario, è pieno di innovazioni tecniche. Hitler sembra preferirlo, ma alla fine il prototipo mostra inconvenienti notevoli. Per la prima volta, Porsche esce sconfitto. Il suo Tiger viene convertito in semovente leggero, il Ferdinand. Ulrich Goider è stato il tecnico responsabile del Ferdinand. Ero molto orgoglioso di quel carro. Era un Panzer magnifico. Andava bene. Feci dei percorsi di prova e ogni tanto veniva con me anche il dottor Porsche. Ricordo che mi gridava: che gliene pare del Panzer? E io: è perfetto, cammina bene, lo potrebbe guidare anche un bambino. Sul campo di battaglia il Ferdinand si rivela un insuccesso. Hitler allora commissiona a Porsche un nuovo carro, enorme e potentissimo, il Maus. Il carro viene realizzato, 180 tonnellate di peso, 6 metri di altezza. Dimensioni esagerate, per Porsche sarà un colpo terribile. Alla fine del 1943 Porsche viene sollevato dall'incarico di direttore della commissione Panzer. Potrebbe uscire di scena, ha quasi 70 anni e la catastrofe per le sorti della guerra comincia a delinearsi, ma Porsche non vuole arrendersi. Il rifugio Porsche, una costruzione a pochi minuti dallo stabilimento Volkswagen. I dirigenti si riuniscono qui una volta alla settimana. Porsche vuole sfruttare al massimo il suo stabilimento, ad ogni costo. La Volkswagen deve potenziare i suoi impianti ed essere competitiva quando verrà la vittoria finale. La squadra di Porsche ha già in cantiere un nuovo progetto. È il razzo V1, una nuova arma di rappresaglia. Non è stata ideata da Porsche, ma sarà lui a produrla. Per lo stabilimento Volkswagen è una commessa importante. Con questa bomba volante, il vecchio progettista è convinto di poter aiutare il suo Führer a conquistare la vittoria. Non ha più il senso della realtà. Probabilmente anche Porsche era fra coloro i quali non dubitarono mai del fatto che bisognava resistere fino alla fine. Non si rendevano assolutamente conto che quella era un'impresa disperata. Tiersele, Lorena. Porsche consiglia che l'arma segreta venga costruita in queste gallerie prima che il nemico distrugga l'impianto di Fallersleben. Serve urgentemente manodopera, ma Porsche ha pronta una soluzione. Si rivolge personalmente al capo delle SS, Heinrich Himmler. 7 marzo 1944. colloquio al Ministero dell'Aeronautica. La riunione è presieduta dal Feldmaresciallo Milch. Tutti gli interventi vengono messi a verbale, anche quelli di Porsche. Intendiamo riempire la galleria di detenuti dei campi. Ce ne sono stati accordati 3.500 per l'allestimento e la produzione. Per il potenziamento me ne verranno forniti altri dal Reichsführer delle SS. Verranno prelevati da Auschwitz, la fabbrica della morte. Estate 1944. A Tiersele arrivano gli ebrei provenienti dall'Ungheria. Sono le ultime vittime della follia di Hitler. Anche Arthur Schmiele è coinvolto nell'operazione. Mio padre era direttore dello stabilimento Volkswagen. Nel maggio del 1944, per ordine di Porsche, dovete andare ad Auschwitz a reclutare gli ebrei arrivati nel campo di concentramento. Servivano come lavoratori forzati nello stabilimento. Una volta arrivato li fece mettere in fila e li sottopose a dei piccoli esami. Ad esempio faceva eseguire semplici esercizi di matematica, oppure domandava se sapessero usare il regolo calcolatore o cose del genere. Chi rispondeva correttamente e dimostrava di avere qualche cognizione di tecnica e costruzioni veniva preso. Gli altri, quelli che venivano scartati, finivano nelle camere a gas. Quasi tutti gli 800 specialisti ingaggiati per la produzione del V1 sono sopravvissuti alla guerra. L'arma, la cui produzione ha salvato loro la vita, colpirà migliaia di volte il suolo d'Inghilterra. Decine di migliaia di persone troveranno la morte fra le macerie. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Ferdinand Porsche viene arrestato dagli alleati e tenuto prigioniero per 2 anni. Non viene istruito alcun processo a suo carico e dopo pochi mesi torna in libertà. Continua a progettare e costruire vetture da corsa. L'ultimo successo sarà la 356, prodotta dall'azienda guidata dal figlio Ferdinand. Il successo commerciale del Maggiolino, il suo capolavoro, venduto in milioni di esemplari, continuerà anche dopo la sua morte. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.